24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti. Buongiorno, l'ultima puntata per quel che mi riguarda prima del, non di Natale, proprio del 2012. Poi ci rivedremo, non lo so, il 10 gennaio forse. Allora, oggi ho deciso che vi farò un pochino arrabbiare, Ve lo dico, premessa, così poi vi rilassate per il Natale. Avremo tre belle storie da raccontarvi di politica e dintorni. Il consigliere regionale della Campania che chiede un condono per la Campania. Uno dei due sindaci deputati che si sono salvati al Senato, il sindaco di Afragola e senatore Nespoli, sarà nostro ospite. Così come l'assessore al comune di Palermo, che è un baby pensionato grazie alla legge 104 in Sicilia. Questo è il menù dalle 8:20. Siete già un po' arrabbiati? No, aspettate un attimo prima di ascoltare le loro storie. Intanto leggiamo i giornali in edicola. Questo venerdì 23 dicembre le aperture sono tutte dedicate al giorno dopo l'approvazione definitiva della manovra. Per il Sole 24 Ore, che dedica uno speciale di 24 pagine, proprio tutte dedicate, declinate alla manovra, al decreto Salva Italia, ora cosa cambia? Il titolo di apertura è "Sia la manovra, cambiano fisco e pensioni". Per il Corriere della Sera, "Fisco, casa, pensioni, così si cambia". Repubblica, "Sia la manovra, ora la crescita". Monti a testa alta in Europa. Per il Messaggero, "Sia la manovra, fiducia in calo". Per la Stampa, "Monti, gli italiani comprino i bot". Questo è il titolo di apertura. Per Libero, "Dai monti alla palude". Il Giornale invece apre sul processo a Berlusconi, il caso Mills, con la testimonianza di Mills che ritratta tutto. "Silvio non mi ha pagato", questo è il titolo di apertura. Per il Fatto Quotidiano invece, "Porcata alla Regione Lazio", la vicenda dei vitalizi allargati, la vedremo più avanti, è una vicenda di qualche giorno fa, non so perché è esplosa oggi, nella notte tra mercoledì e giovedì, in realtà la Regione Lazio ha preso questa decisione. Ma per l'appunto, allora, qualche anticipazione tra l'altro di quello che tratteremo anche noi, perché il sindaco di Afragola, nonché senatore del PDL, Vincenzo Nespoli, 57 anni, medico, uno dei due salvati dal voto della giunta per l'incompatibilità, che ha deciso di non recepire una sentenza della Corte Costituzionale, perché il Senato è autonomo, così come la Camera, ma alla Camera l'hanno recepita questa sentenza della Corte Costituzionale, che impedisce di avere un doppio incarico da sindaco oltre i 20.000 abitanti e parlamentare. Bisogna scegliere al Senato, salvando così due sindaci senatori, vale a dire Nespoli per l'appunto di Afragola e Azzollini a Molfetta, hanno deciso che questa sentenza non va recepita. Ebbene, sarà nostro ospite, ma fa anche un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Fabrizio Roncone a pagina 8 e 9. Eccolo qua, Vincenzo Nespoli, che dice: aspetti, sto arrivando, sono in taxi, poi in treno, insomma arriva quando Monti ha già parlato al Senato e dice: senta, voi giornalisti smettetela di parlare per slogan, fare bassa propaganda e disinformazione. Ecco, questo è il tipico attacco di chi vuole attaccare perché si sente sulla difensiva. Lei conosce l'articolo 66 della Costituzione? Le Camere sono autonome nel decidere sui casi di incompatibilità, punto. È tutto in regola, dice il senatore, e effettivamente da questo punto di vista, dal punto di vista della legge, è tutto in regola, voglio dire, se stiamo alle regole. Allora, io quanto tempo dedico al Senato? Arrivo a Roma il martedì pomeriggio, sto qui l'intera giornata di mercoledì e il giovedì mattina alle 13 risalgo sul treno e torno a fare il sindaco. Quindi, mi scusi, lei lavora meno di due giorni a settimana per il Senato della Repubblica? Embè, risponde il senatore Nespoli, come embè? No, dico, embè, qual è il problema? Tutti i miei colleghi senatori lavorano due giorni a settimana, è così, è inutile che ora mi guarda con quella faccia, lei non può venirsela a prendere solo con me. Così il senatore Nespoli, che poi dice: vabbè, guadagno sui 140.000 euro lordi all'anno. Ci pensi bene, chiede Roncone. Bah, Beh, certo, sì. Poi ci sono le voci al netto, quelle su cui non paghiamo tasse noi senatori. Saranno 3.200 euro al mese per le spese di segreteria e 4.000 per la diaria. Ecco, appunto, a lei la diaria, che non è mai a Roma. A cosa serve? Chiede Roncone. Allora, io devo pur mangiare, no? Secondo lei ha idea di cosa significhi fare politica in campagna? Ha idea di quanti regali di matrimonio devo comprare? Non le dico quante volte mi chiedono di fare il padrino alle cresime? Il senatore Nespoli, che sarà nostro ospite alle 8.30. E tra l'altro anche l'Unità fa una pagina su questo, cortesie tra ex alleati dietro il salvataggio dei sindaci senatori. Mentre due notizie flash sul fatto che la Regione Lombardia ha deciso di costituirsi parte civile nel futuro processo, che non è peraltro ancora incardinato, nei confronti di Franco Nicoli Cristiani, ex vicepresidente della Regione Lombardia, per l'appunto del Consiglio regionale per la verità. E questo che cosa vuol dire, come scrive La Stampa a pagina 9, che per il momento è bloccata quella buona uscita da 340.000 euro che Nicoli Cristiani avrebbe preso da gennaio, così come la pensione da 5.000 euro al mese da ex consigliere. Qualcuno aveva gridato allo scandalo a dire: ma come, è condannato? Cioè condannato, scusate, no, ritiro subito, è stato arrestato con l'accusa tutta poi da dimostrare di aver imbuscato, di aver preso delle tangenti, e se ne va con 340.000 euro di liquidazione. Per ora bloccata la liquidazione perché la Regione Lombardia si costituirà parte civile. E poi voglio citare anche, prima della pubblicità, il meteo, Lele Mora. Qualcuno, ironizzando su Repubblica, pagina 23, l'ha definita già l'elemosina. Lele Mora, in carcere, ormai da tempo è in carcere, dal 20 giugno, non ha più un soldo. Così almeno sembra. La questua via SMS di Lele Mora. Amici, aiutatemi. Repubblica fa sapere che l'agente di Lele Mora ha mandato un SMS a varie persone che evidentemente erano in contatto con l'ex manager, dal testo questo: sapete quale sarebbe il mio più grande regalo di Natale? Tornare assieme a tutti voi. Se potete, aiutatemi a fare questo inviando un contributo a questo comitato. Gli amici di Lele Mora. Conto bancario IBAN IT93Y, eccetera. Quando ho potuto, con voi ho condiviso business e divertimenti. Buon Natale, un amico, Lele Mora. La questua via SMS di Lele Mora, l'IBAN non è pubblicato su Repubblica, ma se volete gli amici di Lele Mora, magari digitate su internet e troverete l'IBAN, e se volete dare un euro o 10 euro o 100 euro o 1000 euro a Lele Mora in carcere, potete farlo. Allora eccoci qua, sono le 7.33 minuti, nella lettura dei giornali e nella promessa che vi ho detto oggi vi faccio arrabbiare. È il mio ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze, ma 24 mattino continua, continuerà con Gigi Donelli. Però, ecco, ieri approvata la manovra, sappiate, prima di parlare della manovra, che ora il Parlamento va in ferie. Cari italiani, tutti andate in ferie, no? La casta si ferma per 20 giorni, fanno più ferie dei liceali. Parlamento chiuso, così titola Libero a pagina 11, c'è chi va alle Maldive, sono molti. Monti invece andrà a pare per cime imbiancate del Trentino. Molti politici appunto sceglieranno l'estero, le Maldive le più gettonate come isole, e via, tutti in vacanza, liberi tutti, insomma. Tra l'altro pare che il ministro ai rapporti col Parlamento Giarda abbia fatto questa battutina ieri dicendo: ma cos'è adesso, i senatori hanno 20 giorni di vacanze pagate da noi? È uno che ogni tanto le butta lì, no? Delle frecciatine, perché questo è stato rimproverato anche da Fini una volta in Parlamento, il ministro Giarda, simpatico, ogni tanto fa qualche punzecchiatura. Allora, ieri, come detto, è stata approvata la manovra, il decreto Salva Italia è ormai legge, Monti ha detto è partita ora la fase 2, Tutto il resoconto è a pagina 5 del Sole 24 Ore della giornata politica, firma Lina Palmerini. L'appello, tra l'altro, del Premier è stato anche quello agli italiani per superare la crisi e per fare in modo che l'economia torni a crescere. Gli italiani dovrebbero sottoscrivere BOT e CCT in modo da dimostrare più fiducia in noi stessi. Questo è il titolo di apertura della Stampa. L'appello, certo, che fa discutere. Monti: gli italiani comprino i BOT. Ora poi ha promesso: andremo avanti in Europa a testa più alta. Sul tema del lavoro e della riforma del lavoro ci sarà il dialogo con le parti sociali, e aggiungono tutti, dopo la falsa partenza con la polemica infuriata sull'articolo 18, ora avanti, promette Monti, anche sulle liberalizzazioni, quelle che sono state bloccate al momento, appena si sono profilate all'orizzonte. Sta di fatto che dal punto di vista dei voti Monti ha perso qualche voto, perché ora, oltre alla Lega, che ieri ha inscenato la solita protesta anche un po' chiassosa al Senato, anche l'Italia dei Valori ormai si è smarcata dal governo Monti, ha votato no alla manovra e voterà no alla fiducia. Con Umberto Bossi che ironizza su Berlusconi: sta lì buono come una pecorella, così ha detto Umberto Bossi, e che ha detto anche Tremonti entrerà nella Lega, all'estero a grande credito, a differenza di Silvio. Insomma, ormai volano stracci tra Bossi e Berlusconi. Berlusconi con un po' di ironia ha detto: ma sono anche simpatici questi della Lega, li vedo in Parlamento, sono tornati quelli della Lega di qualche anno fa, di lotta, di continua provocazione. E insomma, il rapporto davvero è ai minimi termini. Vedete in politica come cambiano le cose: fino a poco fa erano alleati molto solidi quando Berlusconi era al governo. Tra l'altro, ieri tutti hanno letto, e ci sono retroscene della politica su questo, l'analisi che Mario Monti ha fatto del sostegno ai partiti in Parlamento. Perché ieri notavamo, per esempio, come Berlusconi, ma anche altri partiti, anche Bersani, che mantiene il sostegno a Monti, poi dice è roba da matti toccare l'articolo 18. Così Berlusconi, che dice siamo leali a Monti e dobbiamo sostenerlo, poi magari parla ai suoi e dice prepariamoci al voto e alle votazioni. Ecco che allora Mario Monti non si è lasciato sfuggire questa doppia faccia da parte dei partiti, e in aula il professore svela la doppia verità dei partiti. A pagina 3 della Stampa è l'analisi politica più acuta oggi, è a firma Fabio Martini. Ha detto Monti: vorrei dire ai cittadini che l'appoggio che questo governo sta ricevendo dai partiti è molto più grande di quello che i partiti stessi a volte lasciano credere o dichiarare. Qualcuno mugugna al Senato a questa frase di Monti, che poi precisa: capisco benissimo che i colloqui che hanno luogo, per esempio col Presidente del Consiglio, da parte di forze politiche e che sono di grande appoggio, incoraggiamento e stimolo, vengano poi presentati esternamente piuttosto dal punto di vista del veto o della forte pressione. Cioè, il segnale di Monti è questo: i partiti che magari vedete dichiarare puntiamo al voto ora in campagna elettorale, in realtà, fa sapere Monti, quando mi incontrano privatamente mi dimostrano sostegno totale. E anche il Fatto Quotidiano, con Caterina Perniconi, dichiara, fa un titolo che è questo, a pagina 7: i veti dei partiti, chi abbaia non morde. Privatamente, insomma, Monti dice: ho tutto l'appoggio del caso. Volete un pochino arrabbiarvi, per l'appunto? Allora, una carrellata di qualcosa che vi farà certamente un pochino arrabbiare. Ecco qui. Secondo il giornale, a pagina 3, l'articolo è molto tecnico, non mi addentrerò, se volete leggerlo. Ieri è stato peraltro anticipato dalla Padania. Spunta la superpensione per i ministri. Grazie a un cavillo, chi lavorava nel pubblico avrà contributi previdenziali legati ai maxi stipendi. Altro che sacrifici. Questo è il titolo del giornale. Emanuela Fontana ne scrive: è un'interpretazione di una legge di ben 31 anni fa, 1980. che grazie a una norma interpretativa, grazie a una postilla all'interno del decreto Salva Italia nel fatidico comma 6 articolo 23, e si annida sempre nella burocrazia e nei cavilli, ricordatevelo cari ascoltatori, la fregatura, i tecnoministri continueranno a percepire i contributi ai fini della pensione, quelli che non so hanno in questo anno e mezzo, lasciano un loro lavoro e fanno il ministro, ma l'importo dello stipendio considerato non rispetterà il limite parlamentare come si prevederebbe nella manovra, bensì sarà quello dell'ultimo busta paga percepita da dipendente pubblico. Facciamo un esempio: se per esempio uno dei ministri è un ex super dirigente statale, si pensi per esempio a Vittorio Grilli o a Profumo del CNR, e percepiva, poniamo, 20.000 euro al mese, ora mentre farà il ministro continuerà a ricevere i contributi. Ma i contributi si riferiscono non allo stipendio di ministro che fa, ma si riferiscono a quello stipendio che prendeva e non al tetto delle indennità previsto dalla legge del 1980. Insomma, un inghippo da zecca garbugli che secondo il giornale fa scattare dei contributi più alti e quindi la super pensione per i ministri. Vogliamo continuare a essere sereni, pacati, ma un po' incazzati. Il pacco Polverini, così titola il Fatto Quotidiano, con firma Carlo Tecce, a pagina 3, per la verità è anche l'apertura di prima pagina, porcata alla Regione Lazio. I 14 assessori esterni e i 3 consiglieri decaduti andranno in pensione a 55 anni con 3.000 euro al mese e per tutti indennità con scatto. È una decisione che il Consiglio regionale ha preso nella notte tra mercoledì e giovedì. Anche queste cose o si annidano nei commi o si annidano nelle ore notturne, queste decisioni. I 14 assessori esterni del Lazio, scrive Carlo Tecce sul Fatto, meritano un vitalizio: appena arriveranno ai 55 anni d'età incasseranno così un assegno mensile da 3.000 euro. Un'anonima manina ha inserito un emendamento al bilancio, un'agile penna ha firmato una norma che rimanda un comma che riflette una legge, non si capisce un tubo ma funziona perfettamente, sempre di notte, sempre di nascosto. Il taglio ai costi di caste e periferie, tradotto per la Regione Lazio, si trasforma in privilegio per tutti. Che c'è di male? Risolviamo un'anomalia, spiega la Polverini, la governatrice, con incredibile stupore. Qual è l'anomalia? Siccome i consiglieri regionali vanno in pensione a 55 anni, anche se in carica per un giorno, avrà ragionato il governatore, perché penalizzare gli assessori esterni? Ed eccolo qui allora, 14 assessori esterni, tutti messi con fotina, con le loro facce, contente ovviamente, e 3 consiglieri decaduti, che sono appunto decaduti ma sono stati salvati e avranno anche loro il vitalizio. L'Unità titola così a pagina 13: Lazio, Polverini regala il vitalizio alla sua squadra, con Maria Grazia Gerina che dice un'altra dichiarazione della Polverini: questa è la mia squadra e la difendo a ogni costo, ha tuonato Renata Polverini, neanche fosse un allenatore di calcio ridotto a rivendicare come vittorie le prestazioni peggiori. E vabbè, e questo viene dalla Regione Lazio. Forse ce n'è ancora per farvi arrabbiare, chi lo sa, ma tra poco. A proposito di pacco, visto che il Fatto Quotidiano ha titolato il pacco della Polverini, c'è un altro pacco che è il titolo di prima pagina del Manifesto, il pacco è per noi, questo è il titolo di prima pagina, dedicato appunto all'approvazione della manovra. C'è un articolo di Norma Rangeli, che è stata direttore del Manifesto, in prima pagina, un editoriale, e riguarda il fatto che questa manovra, se non verranno modificate alcune cose, ridurrà il sostegno, i fondi per l'editoria, per alcuni giornali, tra cui quelli editi da cooperative come il Manifesto, e questo può costare la chiusura di alcuni giornali. E infatti Norma Rangeri fa l'editoriale dedicato a questo: ricostruire l'Italia, traghettare il paese fuori dalla crisi è certamente impresa titanica, scrive Norma Rangeri, mentre ammazzare le voci scomode è un gioco molto semplice, basta rinviare, non decidere, lasciare le cose come stanno. La falcidia è già iniziata con l'annuncio della cessazione delle pubblicazioni di Liberazione a partire da gennaio e, come potrebbe accadere, tra un paio di mesi anche a noi del Manifesto. È un esito drammatico con un responsabile preciso: il governo. La sola promessa di avere un contributo per l'editoria senza certezze sull'entità del finanziamento ci mette con le spalle al muro. Servono invece subito almeno 90 milioni facilmente reperibili eppure introvabili. Insomma, l'accusa del Manifesto è questa, e poi l'appello finale ai lettori: abbiamo vinto tante battaglie, adesso abbiamo davanti l'ultima. Il Manifesto dice: entro 2 mesi chiuderemo se non c'è un segnale preciso. Fermiamoci per il traffico, poi magari qualche altra notizia vi farà ancora un po' arrabbiare. Allora, intanto c'è da dire che l'Unità dà la notizia, è l'unico giornale a dare questa notizia, di una deputata del Partito Democratico che è pronta a dimettersi. Avrebbe già rassegnato le dimissioni dalla Camera. Si dimette la deputata ex operaia, soffro troppo a votare la manovra. Si tratta di Lucia Codurelli, 61 anni, lecchese, per 30 anni operaia in un tubettificio, delegata CGL di fabbrica, poi dirigente del DS, che lunedì mattina ha consegnato la lettera di dimissioni a Gianfranco Fini. Una notizia, scrive Andrea Carugati sull'Unità, rimasta finora riservata, che ha scosso parecchio gli animi del gruppo del PD. Con lei che dice: ora sono tante le pressioni per farmi recedere, ma io ho votato questa manovra e credo sia giusto tornare a casa. Ho votato una manovra che si accanisce contro quella parte della società per cui ho sempre lottato, gli operai alla catena, le donne, chi ha iniziato a lavorare a 15 anni, dell'equità non si è vista neppure l'ombra. Con quel voto mi è sembrato di tradire la parte più debole del mondo del lavoro. Ed ecco dunque che questa deputata dice: sono presa da questa crisi di coscienza. Tra l'altro era diventata celebre, era assurda all'onore della cronaca, come si suol dire, magari anche non molto contenta, quando, ricordate, si era alzata in aula per intervenire contro l'idea di fare il nuovo nome del Popolo della Libertà, Forza Gnocca, e ricevette un "vai a farti scopare" dai banchi della Lega, urlato da qualcuno. Ci fu ovviamente indignazione, eccetera. In ogni caso, Lucia Codurelli, tra l'altro, c'è anche questo solito giallo: dimettendosi prima di Natale avrebbe diritto al vitalizio. E anche qui l'Unità, Andrea Carugati, fa giustamente il suo lavoro e glielo fa notare. Non è che forse, cara onorevole, c'è anche questa questione che se lei si dimette prima di dicembre ottiene un vitalizio da 1700 euro quando avrà 65 anni? Le assicuro, è l'ultimo dei miei pensieri, dice l'onorevole Codurelli. Ho lavorato per 38 anni, ho maturato la mia pensione da 1000 euro al mese e posso vivere con quella come tantissimi altri che vengono definiti privilegiati. Va bene, volete ancora un po' arrabbiarvi? La Repubblica fa il secondo giorno di dossier a firma Anna Maria Liguori e Giovanna Vitale sulle esenzioni dell'ICI. Non abbiamo ancora saputo se perché la società lì, l'Unione per la produzione della patata, è esente dall'ICI a Roma, cioè la sede di questo ente prestigioso. Non ci sono spiegazioni per il momento. In ogni caso, oggi Repubblica si concentra sull'esenzione dell'ICI di tutti quegli immobili proprietà della Chiesa che sono liberi dalle imposte perché hanno, diciamo, un uso non esclusivamente commerciale. Sono 172 collegi, 356 case della congregazione, molte sono case ferie, alcune sono case di cura, alcuni sono scuole, ospedali. Insomma, queste sono le esenzioni dell'ICI che trovate a pagina 14 e 15 dall'elenco depositato in prefettura. Questa fa arrabbiare, sì, La questione della casa con sconto, denunciata ieri da Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, che si sarebbe accaparrato l'attuale ministro della funzione pubblica Patroni Griffi. Il Libero oggi ci torna con Tommaso Montesano, sobrietà al governo, casa al Colosseo con lo sconto, il ministro stacca il telefono. Patroni Griffi ha pagato un appartamento ex INPS 2.300 euro al metro quadro anziché 7.000 metri al metro quadro, era il valore di mercato, ma... ricordando ieri la storia, questo immobile è stato considerato non di pregio, con tanto di causa vinta da Patroni Griffi con tutti gli altri coinquilini. Ora, può essere, qualcuno si chiede, non di pregio un appartamento nei pressi del Colosseo? Così è stato deciso, ci sono sentenze di tribunale. Ieri Sergio Rizzo faceva notare l'inestricabile groviglio in cui in queste sentenze si ritrovano sempre un po' le stesse persone. Per esempio Patroni Griffi, non c'è nulla di male, era difeso come avvocato da Carlo Malinconico e ora siedono entrambi al governo. Oppure la causa arrivò anche al Consiglio di Stato, dove Patroni Griffi era consigliere di Stato o era stato consigliere di Stato. Insomma, un mondo un po' piccolo, no? In cui si ritrovano curiosamente sempre le stesse persone. Ebbene, oggi Libero ci ritorna dicendo, tra l'altro, contattiamo Palazzo Vidoni, sede del Ministero della Funzione Pubblica, ma ci dicono che Patroni Griffi non ha ancora un portavoce e comunque non è neanche in sede e così via, non parla nessuno. Fa arrabbiare certo anche la vicenda che è denunciata con una pagina da La Stampa, Il Secolo XIX, ma anche è l'apertura del quotidiano nazionale. Sulla Stampa, arrestato il milionario fantasma, così... l'articolo di Pierangelo Sapegno. Milano, per il fisco era nulla tenente, ma viaggiava in Porsche, aveva una villa, uno yacht in Sicilia. Era stato cancellato anche dalla Banca d'Italia, come dall'elenco dei mediatori finanziari, Umberto Ruta, 44 anni, esisteva senza esistere, scrive Sapegno. Faceva comprare aziende, metteva fatture regolari, faceva tutto bene, tanto lui non c'era, era già sparito con la sua Porsche Cayenne, con la sua Porsche Panamera. Col suo yacht modello Ferretti 72 con personale a bordo a Villa Giglio in Sicilia o da un'altra parte. Incredibile questa storia, raccontata anche dal Secolo XIX, Porsche, ville, super yacht, ma era sconosciuto al fisco perché aveva la residenza a Lugano. Il Giorno, addirittura l'edizione del Nord del Quotidiano Nazionale, lo mette in prima pagina, se ne volete vedere il volto, tra l'altro a bordo immagino della sua Porsche. L'imbroglione, questo è il titolo, cioè è incredibile la scelta editoriale del Quotidiano Nazionale, mette questa storia e questa persona in prima pagina e poi pagina 2-3, vita da nababbo con villa e yacht, ma per il fisco era uno sconosciuto. Certo, è una storia emblematica che viene presa dal Quotidiano Nazionale per raccontare le storie incredibili di evasione fiscale, e la storia di Umberto Ruta, 44 anni, originario della provincia di Siracusa, residente a Lugano, per il fisco nulla tenente, viaggiava come un super nababbo. Trovate molto, sono in rapida chiusura, anche della vicenda del processo Mills, con un clamoroso colpo di scena con Mills che in pratica ha detto era una fiction, chiedo scusa a Berlusconi, ho inventato tutto, i famosi $600.000 che avevo detto di aver preso per due deposizioni reticenti in processi a Berlusconi, in realtà sono soldi che ho preso dall'armatore Attanasio, armatore che peraltro smentisce, ma in ogni caso è un clamoroso dietrofront da parte di Mills. Scuse in aula al Cavaliere, inventai tutto, mi vergogno, gli chiedo scusa, ritrattate le accuse, non ho mai ricevuto $600.000 da Berlusconi. L'articolo di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera lo trovate a pagina 22. Vi siete arrabbiati abbastanza? Mi sa che non è ancora finita, perché poi vedremo più avanti. Intanto registro in chiusura due notizie di sport ben contrapposte: le lacrime di Doni in cella, ex capitano dell'Atalanta in cella, le accuse di calcio scommesse, è stato trovato, sono andati a trovarlo Giacomo Stucchi che è un parlamentare, Daniele Belotti che è un assessore della Lombardia, ma sono entrambi accomunati da una fede calcistica per l'Atalanta molto molto vibrante. E raccontano di un Doni distrutto che dice: ma che fuga nel garage, quando sono arrivati i poliziotti pensavo fossero dei ladri e mi sono rifugiato in garage, ma sono stati tutti molto gentili. Crolla in lacrime quando gli citano la figlia. È un Doni che dice: mi sento sotto un treno, vi prego aiutatemi. Sempre come storia di calcio legata al calcio scommesse, ma in questo caso in senso positivo, il CT della Nazionale Prandelli ha deciso. Simone Farina, quel giocatore del Gubbio che ha rifiutato 200.000 euro per corrompere, essere corrotto e comprare una partita, verrà non convocato, perché non è una convocazione nazionale, ma verrà chiamato e si allenerà per 3 giorni con la nazionale di calcio. Prandelli porta in nazionale Farina, un premio in nome del calcio pulito. 24 mattino. Sono le 8:21 e 21 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi io ho detto la premessa, oggi magari vi faremo un po' arrabbiare cari ascoltatori, perché vogliamo raccontare 3 storie, a partire 3 storie dalla politica. La prima è il primo nostro ospite, vale a dire un consigliere regionale della Regione Campania del Popolo della Libertà, Luciano Schifone, che saluto. Buongiorno Schifone, eccoci qua. Salve, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, e senta, io ho detto che oggi faremo arrabbiare un po' i nostri ascoltatori. Lei starà con noi fino alle 9, poi ci raggiungeranno il sindaco di Afragola, che è anche senatore, Vincenzo Nespoli, che è doppio, ha un doppio incarico. E poi l'assessore di Palermo, Eugenio Randi, che è un baby pensionato per la legge 104. Ma prima partiamo da lei. Lei ha proposto ieri... Gian Antonio Stella ha dedicato una pagina a questo tema sul Corriere della Sera, l'ha citato, un condono edilizio, forse meglio dire mini condono edilizio per la Regione Campania. Beh, un po' impopolare come scelta, no? No, per la verità io devo dire che Gian Antonio Stella in questo caso ha preso un po' un abbaglio, quindi mi spiace, perché ho l'impressione che non abbia letto il mio emendamento. Quindi, ce lo spieghi, cosa propone lei? Si tratta di questo, di un emendamento che ho presentato alla legge finanziaria che stiamo trattando ora in Regione Campania, perché con la legge del 19 del 2009 si è adottata una legge fatta tra l'altro in epoca di centrosinistra, con varata dal governatore Bassolino, si è autorizzato il cosiddetto piano casa per la regione Campania, cioè la possibilità di poter in qualche modo ampliare o comunque realizzare piccoli manufatti nell'ambito di una ristrettissima casistica molto molto ben definita per esigenze diciamo oggettive della popolazione della regione Campania. E cioè, per esempio, non so che qual è una esigenza oggettiva. Se uno ha un appartamento di 100 metri quadrati in una villetta rurale dove non ha nessun vicino, non ci sono situazioni di standard urbanistici particolari, se ha necessità ampliare questo immobile del 20%, quindi sostanzialmente il piano casa infatti è stato criticato, vabbè, il piano casa, ma comunque insomma è stato approvato, poi le regioni lo devono recepire. Ma lei che cosa ha proposto in questo? Io ho proposto che nel caso in cui in un periodo precedente al 19 dicembre, alla legge 19, al 28 dicembre 2009, all'introduzione di questa legge, qualche cittadino avesse in quelle tipologie specifiche particolarmente definite dalla legge, lo saniamo, avesse realizzato senza autorizzazione, senza permesso a costruire questa volumetria viene sanata, possa essere sanato come Schifone, è un condono, di un'operazione di equità sociale, perché ho capito, mi scusi Schifone, mi sta descrivendo un condono, cioè se uno ha fatto qualcosa prima che venisse introdotto il piano casa, sempre secondo le norme del successivo piano casa, lo condoniamo, lo saniamo. Sì, sostanzialmente sì, ma voglio dire, siamo di fronte, cioè se uno pensa, uno dice la parola condono, dà l'impressione, tante volte, infatti il buon Gian Antonio Stella ha scritto un paginone intero. No, lei dice, se uno dice la parola condono, ho capito, schifone, la parola non le piace, però è un condono, poi in italiano vogliamo chiamarla come si vuole, ma è un condono. Sì, certamente, ma è una cosa che riguarda, voglio dire, saranno in Campania, saranno nell'ordine di un centinaio di stanze, ecco. Un centinaio di stanze, lei dice così poche. No, perché leggevo ieri che secondo una stima 20 case su 100 sono illegali in Campania o hanno una qualche illegalità. Ma non possono essere sanate. Non possono essere sanate. Assolutamente, questo dico, è un abbaglio pesantissimo. Un abbaglio pesantissimo. Mi spiace che Stella sia caduto pur di scrivere e di attaccare a testa bassa per fare un po' di scandalismo, abbia scritto cose assolutamente fuori da ogni grazia di Dio. Però perché, schifone, mi scusi, prima di scrivere un buon giornalista dovrebbe leggere sia l'emendamento e sia le leggi di riferimento a cui viene agganciato. Però le chiedo questo, perché lei ha fatto un condono per 100 stanze? Cioè che interesse è? Non ha un interesse personale? Di equità sociale. Per 100 persone? Se avesse avuto la bontà di leggere tutto il mattino, che Gian Antonio Stella ha preso spunto da un articolo uscito del mattino, sì, in cui con estremo equilibrio il mattino descriveva il mio emendamento, nello spazio accanto a quell'articolo c'era un'intervista del giudice De Chiara della Procura di Napoli, che è dedicato proprio a questo tipo di problematiche, e il quale ha detto spesso si ricorre a questo tipo di intervento perché c'è un'esigenza diffusa di sistemare, di razionalizzare l'abusivismo selvaggio che c'è stato nella nostra regione. Capito, ma equità sociale che vuol dire? Cioè uno ha fatto un abuso, nel senso è una cosa che uno avrà fatto una stanzetta, una veranda, ma l'ha fatta abusivamente. Che equità sociale di che equità sociale si tratta, se gliela condoniamo? Perché si tratta di una questione innanzitutto di rilievo, diciamo di rilievo minore, ma si tratta di una sorta di diseguaglianza rispetto a chi il giorno dopo l'entrata in vigore di quella legge, quello stesso cosiddetto abuso, quella sulla non è più un abuso, può costruire in maniera. E quindi scusi, cioè se c'è una legge che entra in vigore dobbiamo retroattivamente sanare anche tutti quei piccoli abusi prima, perché sennò c'è una diseguaglianza. Questo è un principio che esiste nel nostro diritto. Si chiama il principio del favor rei, si chiama il principio che adegua la posizione dell'imputato, del cittadino soggetto ad un'attività di legge rispetto all'evoluzione del. È evidente che se c'è un comportamento che può costituire una lesione dell'interesse generale in un determinato periodo, se la legislazione ritiene che quel comportamento non sia più lesivo dell'interesse generale, ha cambiato la legislazione, la legislazione, sì, bisogna adeguare anche quello fatto prima, questo è il concetto. Evidente, se voglio dire, lei mi spiega qual è la differenza, no? Qual è la differenza fra un cittadino che ha costruito una stanzetta il 28 dicembre e il 29, che ha costruito quella stessa stanzetta nello stesso modo il 29 dicembre? Ho capito, però la legge anche c'è anche il principio di non retroattività di una legge. Comunque, schifone, lei stia con noi, perché noi ci dobbiamo fermare 4 minuti, tra poco ci aggiungeranno anche altri ospiti, ma ci saranno anche ascoltatori che diranno la loro, molti protestano, glielo dico già via sms al 349 238 6666, parlano dell'ennesimo condono. condona, è l'Italia dei condoni. In ogni caso risponderà a tutte le accuse dei nostri ascoltatori. 800 24 00 24, tra poco anche con noi il sindaco e senatore, sindaco di Afragola e senatore del PDL Nespoli, che è uno dei due beneficiati del doppio incarico salvato, perché il Senato ha deciso di non recepire una sentenza della Corte Costituzionale. Insieme al consigliere regionale della Campania Luciano Schifone, che ci ha detto, ci sta, è con noi ancora fino alle 9, ci ha spiegato perché secondo lui, se entra in vigore un piano casa che dà la possibilità di ampliare alcune le proprie abitazioni, bisogna fare anche un condono per chi lo ha fatto prima dell'ingresso dell'entrata in vigore di questa legge del piano casa. Però insieme a questa storia vogliamo raccontare, voglio salutare due altri ospiti, intanto il senatore e sindaco di Afragola in provincia di Napoli, Vincenzo Nespoli. Senatore, buongiorno del popolo del Nord. O preferisce che la chiami sindaco, senatore o sindaco, uno dei due? Sindaco preferisco, sindaco. E approfitto per salutare anche il mio amico Luciano Schifone. Ah, perfetto, saluto anche l'assessore alle risorse immobiliari di Palermo, Eugenio Randi, buongiorno assessore. Voi. Eccoci, sono due storie che voglio raccontare. Intanto Vincenzo Nespoli, allora, la Corte Costituzionale di recente ha sancito che un sindaco con oltre 20.000 abitanti non può essere anche parlamentare. La Camera si è adeguata a questa decisione, molti deputati si sono dimessi, il Senato ha deciso, nella sua autonomia, la Giunta per le elezioni ha deciso di no. E dunque lei e anche il senatore sindaco Azzollini a Molfetta vi siete salvati. Sindaco, posso contestare? Contesti. È troppo semplicistico. Ecco. Perché una sentenza della Corte Costituzionale additiva va interpretata. Allora noi dobbiamo entrare nel merito. Se dobbiamo andare dietro alla propaganda che il sistema dell'informazione ha gestito in questi anni, che è stata alla base della decisione della Camera, io la prego, si legga il dispositivo della Giunta per le elezioni della Camera, che dice cioè, l'antipolitica monta nel Paese e chiede. Io credo che l'autonomia del Parlamento non possa essere condizionata all'antipolitica. E però la Camera l'hanno recepita, sì, questa. Non l'hanno recepita, alla Camera si sono adeguato secondo il Senato, sbagliando, perché le sentenze vanno interpretate, vanno adeguate nel contesto legislativo imperante, all'interno del rispetto del dettato costituzionale. C'è un articolo della Costituzione, l'articolo 66, sì, che stabilisce che sui casi di incompatibilità e ineleggibilità le Camere sono autonome e decidono. Perfetto. Con gli organismi interni, questo è il dettato costituzionale. Ah, ma guarda che infatti dal punto di vista della decisione, cioè nulla eccepisce, il Senato poteva farlo. Non sto dicendo che il Senato poteva farlo, io voglio entrare nel merito con lei, e se una volta tanto non pensiamo al doppio incarico e alla incompatibilità, poi ogni tanto qualcuno mi dovrebbe spiegare perché su tutte le cose dovremmo essere europei, e su tutti in carico dobbiamo essere del terzo mondo. In Europa è consentito fare il sindaco e il parlamentare, in Italia questo non vuole essere. Però se vuole in America chi fa il parlamentare non può neanche fare la professione che fa, quindi insomma parliamo di questo. Allora, le usanze, c'era un voto legislativo che il Parlamento ha superato con il decreto di agosto scorso, in cui è stato sancito l'incompatibilità tra parlamentare e sindaco, che prima nell'ordinamento non ci stava. La sentenza della Corte agisce sulla legge del 53 che riguarda la incompatibilità dei parlamentari. Sì, sì. Niente dice sul testo unico degli enti locali, quindi non mette in discussione la figura di sindaco. Che cosa significa questo? Che tutte le sentenze di tipo additivo hanno ovviamente subito i loro riflessi, ma ci sono altrettante sentenze della Corte Costituzionale o sentenze della Cassazione a sezioni riunite che salvano il giudicato. Che significa il giudicato? Le faccio un altro esempio. Quando la stessa Corte Costituzionale anni fa ha stabilito che un giudice inquirente non può far parte del collegio giudicante per la stessa procedura di accusa, nel senso che il PM non può stare poi successivamente nel giudicante, allora si è sancita la incompatibilità del giudice inquirente a stare nel collegio giudicante. Qualcuno ha fatto ricorso perché in casi analoghi il giudice inquirente ha vinto. Vabbè, ma no, non ha vinto, non ha vinto. Però, la Corte Costituzionale ha detto che il giudicato non. Però, sindaco, io le volevo chiedere questo, perché rimane oggi lei ha fatto. Sì, no, cioè, ma certo, ma lei ha fatto anche oggi un'intervista sul Corriere della Sera a Fabrizio Roncone, non so se l'ha già letta, in cui ha detto: io lavoro al Senato praticamente un giorno e mezzo, arrivo il martedì sera al Senato, il mercoledì sto tutto il giorno, il giovedì me ne riparto come per la Fregona. Come tutti i senatori, ho capito, però scusi, guadagna quanto l'indennità? 12.000-13.000 euro al mese. Capisci che lordi, quindi netti 5.000, poi ci sono però la diaria. Per esempio, ecco, le chiede Roncone, la diaria, lei che non sta a Roma, la diaria, che le serve? La diaria viene fatta... Sto a Roma, cioè, ho detto a Roncone, non so se la... Un giorno e mezzo sta a Roma. Sono due notti a Roma. Due notti, 4.000 euro al mese. Guardi, io non la voglio la diaria, io vorrei andare nello stesso albergo dove va Rizzo e Stella quando vengono a Roma e voglio mangiare negli stessi ristoranti di Rizzo e Stella, perché loro ci devono una casta. Io voglio mangiare dove mangiano e dove dormono loro, non la voglio la diaria. Ma magari c'hanno la casa, non lo so. Non lo so, allora mi chiedono anche una casa, voglio dire, state facendo polemica. Ma se la saranno comprata, scusi, senatore, se la saranno comprata una casa. Polemica su niente, voglio dire, giudicate il lavoro che uno fa, smettetelo con questa propaganda. Ma mi scusi, ma perché dice propaganda? Cioè, se il giornalista denuncia, se il giornalista dà una notizia che è vera, perché è propaganda? Allora, guardi, il problema è che tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma. Io sono al di sopra della media delle presenze, in commissione e in giunta. Faccio il mio lavoro di senatore, chiunque mi può giudicare, in più faccio il sindaco e non vengo pagato, non ho nessuna indennità. Allora, in un momento di crisi si dovrebbe favorire la doppio incarico. Ah, perché è un risparmio. Io faccio risparmiare 100.000 euro all'anno al mio comune. Vabbè, rimanga con noi, sì. Però, senatore, un attimo. Vorrei andare dall'assessore di Palermo, Eugenio Randi. Buongiorno. Eccoci ancora, assessore. Vogliamo accomunare, insomma, 3 storie che, lo so, fanno arrabbiare un po' gli ascoltatori. Assessore, lei, per esempio, raccontava ieri il giornale, è uno dei beneficiati di questa legge 104, che è una legge importante che permette di andare in pensione se uno deve assistere un familiare che ha problemi disabili, problemi di salute. Il problema è che in Sicilia questo è permesso, se per i dipendenti della Regione Sicilia, andare in pensione con soli 25 anni di contributi. Si può dire, assessore, intanto lei conferma, cioè è pensionato grazie alla legge? Non confermo. Io sono andato in pensione 2 anni fa. A che età? Con 104, con 30 anni effettivi di servizio. A che età è andato in pensione? 25. 52, sono entrato giovane, ma non è un reato. No, sono per carità. Una pubblica però amministrazione. 30 anni sono 30 anni effettivi con una riduzione del 30% della pensione, quindi io prendo il 70% di quello che mi sarebbe aspettato se avessi continuato per accudire un familiare che è in gravi condizioni. Sì. Non è un privilegio. Una norma. Non è un privilegio. Ha ragione lei, fino a 10 anni fa i dipendenti della Regione Siciliana potevano andare in pensione con 25 anni di servizio. È un privilegio, ma questo. Prima, io non ho soffritto di questa legge. No, le chiedo, assessore, ma è una cosa, soprattutto in momenti in cui il ministro Fornero e Monti dicono rinnoviamo le pensioni, riformiamo, non è un privilegio che va tolto questo? Guardi, io devo dire che sicuramente è un privilegio, non può essere negato, ma secondo me il legislatore regionale che ha proposto questa legge, in presenza di un notevole numero di precari, ha forse voluto continuare a lasciare aperta la finestra del pensionamento per poter inserire in ruolo i precari. Forse è questa la vera ratio, ha scelto che questo permesso, questa opportunità veniva data a chi aveva familiari malati, probabilmente per aggiungere un requisito un po' più importante, però di fatto che vi sia un forte esubero all'interno della Regione Siciliana, questo è fuori di dubbio. In più i dipendenti della Regione Siciliana non gravano sul sistema pensionistico nazionale perché hanno un fondo autonomo per le loro pensioni. Graveranno con i loro contributi. Lei dice. Quindi cioè, non gravano sulle spese dei siciliani neanche? No, gravano sulle spese dei siciliani, anzi devo dire che prima gravavano ancora di più, certo. Però ribadisco sempre, poi parlo del mio caso, non mi sembra né corretto parlare, non è giusto parlare degli altri. Io sono andato, come ho detto prima, con 30 anni di servizio effettivi, senza riscatto. Però scusi, assessore, 30 anni sono comunque pochi, voglio dire, si parla di 40 anni in Italia, e per questo, però lei dice è un privilegio effettivamente, 30 anni. Io confermo che assolutamente è un privilegio, è una norma. E c'è, e lei dice, ha usufruito di questa norma. Alle 8:46 minuti, 800 24 00 24, la parola un po' agli ascoltatori. Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno Milano. Dica. Buongiorno a tutti quanti i partecipanti. Si sta arrabbiando? No, non si arrabbia. Non sono arrabbiato perché non serve a niente arrabbiarsi qui. Ah, proprio di quelli non serve a nulla. No, nel senso che sono ovviamente leggermente schifato, ma è una cosa normale. Il problema è un problema proprio storico. Ecco, questi comportamenti che si hanno soprattutto nel centro-sud. A cosa si riferisce però lei? Al condono? Sì. Perché leggo anche al condono, al condono, al mini condono nella Campania, sia a questi privilegi di questo assessore della Regione Sicilia. Cioè, questi comportamenti fanno profondamente parte del patrimonio culturale di questa gente. Stiamo parlando di 30, anche io sono del centro-sud, di 30 milioni di abitanti. Lei capisce che ragionando in questo modo non andiamo da nessuna parte, ma non solo, ma legittimiamo quello che pensano di noi cittadini del centro-nord. Cioè, che fanno? È uno spot per la Lega. Schifone, consigliere regionale Schifone è ancora con noi. Lei è lo spot migliore per i leghisti, qualcuno ce l'ha anche scritto, eh? Ma guardi, mi pare che sia un po', per quanto mi riguarda, fuori strada il nostro ascoltatore, ripeto, per quanto mi riguarda, perché il principio a cui io mi sono ispirato è quello del principio di eguaglianza. Ancora, ma guardi che questa cosa del favorrei, tra l'altro, nel diritto tributario non si applica, nei contenziosi di questo tipo si applica solo nel penale, ma non nel condono edilizio il favorrei. Lo so bene, ma è un principio di fondo della nostra cultura giuridica. L'articolo 2 del codice penale lo dice: nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato. Nel penale, ma no per il condono edilizio, nel penale. Certo, certamente, non c'è dubbio, però mi riconoscerà lei e l'ascoltatore che è un principio fondamentale del nostro ordinamento. Sì, ma giuridico. Se non vale per il diritto, del condono edilizio. Mi deve spiegare qual è la differenza che c'è fra un cittadino che ha ampliato il suo appartamento prima o dopo? Questo lei dice prima o dopo? Certo, senta, le chiedo. È evidente che se la cosa resta così, per il diritto amministrativo avrà delle conseguenze. Io le chiedo questo, però Schifone, che lei che ne pensa? Lei che ne pensa delle ruspe che a Bacoli hanno abbattuto alcune villette abusive, con la popolazione che si è messa a protestare? Io penso che da che parte sta? Sia una cosa molto brutta. Comunque la si vede, perché per una famiglia si tratta di villette familiari, non si tratta di villette, ma sono abusive, di vacanze o miliardarie. Si tratta di villette dove ci abitava una famiglia. Lei che cosa ne pensa che una famiglia è andata a finire in mezzo alla strada? Ma ho capito, ma erano abusive. Io non è che ce l'ho contro quella famiglia, ma se erano abusive, bisogna trovare il modo di razionalizzare quello che è stato fatto. Razionalizzare che vuol dire? Sanare? Cioè, perché razionalizzare è un verbo che... Bisogna razionalizzare significa adottare dei provvedimenti che permettano alla vita di potersi esprimere e non ingessare un territorio che, quando è completamente bloccato, impedisce la possibilità di poter di poter vivere normalmente. Quindi occorre che si adottino dei provvedimenti. Naturalmente, per fare questo occorre rivedere l'assetto del territorio. Aspetti, voglio tornare un attimo al nostro sindaco di Afragola e senatore del PDL Nespoli. Senta, senatore, cos'è? Ci stiamo accanendo? È una campagna anticasta? Posso intervenire sulla questione degli abusi? Sì, sì. L'abusivismo edilizio è un reato penale, non è un reato amministrativo. Quindi, quindi dice c'è il favor rei. Ma lei le voglio dire, io parlo da sindaco, l'osservatorio regionale della Campania, lei lo può vedere, a Fragola è il comune che più degli altri in avanti con le procedure, con gli abbattimenti, con la requisizione. Quindi da questo punto di vista io sono in sintonia con le leggi, applico le leggi. Su questo dato che ho dovuto affrontare una questione che rappresentava Schifone con un magistrato che ordinava l'abbattimento di un ampliamento di una casa, e io dicevo guardi, io oggi con la norma attuale piano casa può avere questa concessione edilizia, risposta, lo faccio abbattere, dopo gli dà la concessione edilizia. Se questo è normale in Italia, è normale, applichiamo la legge. Questo è il dato, cioè voglio dire, noi ma lei da che parte starebbe, a Bacoli con quelli con le ruspe o quelli che stanno nelle case? Io da me sono stato con la legge, quindi ho fatto gli abbattimenti e continuo a fare gli abbattimenti. Senta, la legge, le devo chiedere anche questo, Roncone anche l'ha ricordato, su di lei era stata in passato fatta una richiesta di arresto per bancarotta fraudolenta ai concorsi di riciclaggio che il Senato ha respinto. Questioni che non attengono all'attività amministrativa di sindaco che faccio, è una questione ancora, sto aspettando, guardi, dopo 3 anni che vengono depositati gli atti e la Procura di Napoli mi faccia sapere che cosa devo fare. In Italia purtroppo un cittadino che chiede di essere processato per dimostrare la propria innocenza fa appelli al voto. I miei avvocati fanno istanza tutti i giorni. Allora, se dobbiamo parlare di questo, parliamo di questo e la prego, dobbiamo entrare nel merito. Per evidenziare anche il profilo persecutorio dell'attività della magistratura, ma stiamo parlando di altre cose. Sì, registravo anche Roncone, l'ha scritto in fine l'intervista, che c'è stata la richiesta d'arresto, è una notizia, no? Non posso dare le notizie. Io sto dicendo, se vogliamo andare nel merito, andiamo nel merito. Io sono abituato a parlare delle questioni che mi interessano. Io nel merito non conosco la vicenda, davo la notizia. La notizia che c'era stata questa richiesta è che il Senato, come tutta la procedura, l'ha respinta questa richiesta d'arresto, punto. Senta, le chiedo, ma perché lei dice che c'è un accanimento della casta contro la casta, eccetera? Voglio dire, se lei dice per sua stessa ammissione che sta un giorno e mezzo al Senato, come tutti i senatori, come facciamo gli italiani a non arrabbiarci per questa cosa? Ma guardi, voglio dire, se uno è eletto parlamentare e l'attività delle Camere si compendiano in 3 giorni alla settimana, quindi martedì, mercoledì e giovedì, da sempre, non è da oggi, da sempre, voglio dire, la colpa non è di chi fa il parlamentare, perché se a me mi chiedessero di stare da lunedì alla domenica, anche la notte, io voglio essere giudicato sull'attività che fa il Parlamento rispetto alla mia presenza e alla mia capacità di fare politica. Faccio il parlamentare dal 94, sono stato eletto la prima volta, faccio politica da quando avevo 13 anni, sono medico iscritto all'albo ma non esercito perché ho scelto di fare politica. Qualche volta vi dovreste interessare di chi invece continua a fare la professione o l'imprenditore e qua c'ha la medaglietta del parlamentare. Sa quanti fanno l'avvocato e il parlamentare, e per questo gli ho detto che in America non si può fare le due professioni. Io sono d'accordo con lei, tanto è vero, ho fatto una scelta, non faccio il professionista, non faccio il medico, ho scelto di fare politica. Perché se no, mi scusi, senatore, sindaco e medico ci vorrebbe una giornata di 40 ore, no? Ma ce ne stanno tante che fanno molto di più. Allora il problema di fondo è stabilire le regole, rispetto alle regole poi ognuno le deve rispettare. Allora affrontiamo serenamente e seriamente una questione, stabiliamo le incompatibilità. Però, e poi rispettiamole. Va bene, no, io qua mi devo fermare. Voglio ringraziare Luciano Schifone, consigliere regionale della Campania del Popolo della Libertà, Vincenzo Nespoli, sindaco di Afragola, nonché senatore del Popolo della Libertà, e l'assessore di Palermo, non è l'assessore della Regione Sicilia, l'assessore del Comune di Palermo alle risorse immobiliari, Eugenio Randi. Abbiamo raccontato queste 3 storie, lo so che forse vi abbiamo fatto un pochino arrabbiare, l'importante è ora pensate al Santo Natale, rasserenatevi, andate nelle località di vacanza, non arrabbiatevi che non serve a nulla. Io vi dico che su 24 Mattino continua Facebook, potete andare, ci trovate lì, continua anche 24 Mattino, io no, me ne vado in vacanza e torno il 10 gennaio, giù di lì semigarba, ma Gigi Donelli continuerà con 24 Mattino, riprende martedì 27 dicembre puntuali qui alle 7:20 con Alessandro Longoni in redazione, con Elisabetta Fusconi in redazione, con Viola Bottoni in redazione e con l'alpino Peter Bescapè, il tecnico che, come sentite, è già sui monti. Ciao!